Mistrie Terni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e buona domenica anche da Matteo Bussola. Ciao Matteo. Ciao Federico. Sei pronto? Prontissimo. La tua prima diretta verissima live, cioè sei nello studio qui di Radio 24 al Salone Nautico di Genova, c'è un po' di emozione? C'è un po' di emozione, sono particolarmente felice, devo dire, che la prima diretta sia da qui, perché la navigazione e le barche, anche se io non sono esperto né dell'una né dell'altra, hanno accompagnato alcuni dei passaggi significativi della mia vita. Forse ha a che fare anche col destino che porto nel mio cognome, non lo so. È vero. Ecco, basti dire che la vacanza delle vacanze, cioè la vacanza dell'estate della maturità, io l'ho fatta in barca con dei miei amici a Itaca. Ecco. Se non è un manifesto programmatico questo. Siamo qui allora nel nostro studio in diretta, ma aspettiamo anche i vostri messaggi oggi. 349-238-6666. Parleremo, insomma, siamo al Salone Nautico, quindi l'argomento era già scritto. Parleremo del rapporto straordinario, particolare, a volte bizzarro, anche divergente, che si può instaurare su una barca tra padre e figlio. Quindi è un tema tosto, ma molto, molto stimolante. So che hai scelto una canzone per lanciare il tema, l'ascoltiamo insieme e poi ci dici perché hai scelto proprio questo pezzo. In mezzo al mar, in mezzo al mar, ogni pirata alerta sta, la terra è quel puntino là. In mezzo al mar, in mezzo al mar, e nella notte... Che cos'è, Matteo? Allora, questa è la sigla cantata da Lino Toffolo, dal compianto Lino Toffolo, dell'Isola del Tesoro, che è stato un cartone animato, oserei dire generazionale, quantomeno per quelli che hanno la nostra età, trasmesso dalla Rai negli anni Ottanta, e che era la trasposizione di fatto dell'Isola di Tesoro di Stevenson. L'ho scelto perché di fatto il rapporto tra Silver e Jim, tra il pirata Silver e Jim, che è il protagonista, è un vero e proprio rapporto padre-figlio, in qualche modo, è un romanzo di formazione, mi pareva pertinente. La barca è piccola o grande, comunque la barca dei confini, la barca ti costringe a stare tutti insieme, la barca ti costringe a prendere delle scelte, a volte ad attendere anche, perché comunque è il vento di fatto che decide. La barca è tante cose e veramente queste tante cose possono essere uno stimolo, un ostacolo, una difficoltà, un accompagnamento di quel rapporto poi che si va a costruire tra padre e figlio, ed è quello di cui parliamo nel nostro programma. Io quest'estate ho fatto una settimana di barca, ho fatto un corso di barca con i miei figli, per esempio. Loro hanno imparato, io no. Questo è, ma non per colpa dell'istruttore, proprio per colpa del soggetto padre, cioè me stesso. Invece i miei ragazzi se la sono cavata. A un certo punto ho chiesto anche: possiamo provare ad andare in barca insieme? E loro avevano paura. Questo lo posso garantire. Invece sono proprio capovolti i ruoli, c'ero io che mi facevo accompagnare da loro, erano loro che guidavano, e già questo è un elemento bellissimo. Beh, visto che è stata un'esperienza molto importante per noi, e soprattutto c'era un istruttore molto tosto che abbiamo invitato qua, perché è da 40 anni con la sua scuola di vela, che è la mitica Utopia, è 40 anni che vede ragazzi, che vede ragazze, ma soprattutto che vede anche genitori e figli che vanno a fare questi corsi insieme. Diamo il benvenuto a Guido Burattini. Ciao Guido. Ciao a tutti. Buongiorno Guido. Me la sono cavata un po' sulla barca, dici? Beh, direi proprio di sì. Bugiardo. Bugiardo. Lui dava le dritte ai miei figli sperando che io acquisissi qualcosa per orgoglio, invece... No, devo dire, tutti hanno i loro livelli. È uno spazio privilegiato la barca per esperienze padri e figli insieme, Guido. Sì, assolutamente, anche perché ha il privilegio di stare in un ambiente particolare che è vento, mare, quindi a che fare un po' con la scoperta del sé, quindi è molto importante anche per quello. E uno si raffronta con un po' di paura, un po' di voglia di fare, con la sua capacità di intuire da dove arriva il vento, cosa fare in quel momento. Cioè, è un rapporto molto importante, chiaramente moltissimo le relazioni tra le persone, moltissimo tra parenti, padri, figli e cose del genere. Le media perché le Cioè, ribalta veramente un po' i ruoli, no? Sì. Comunque, a volte li livella, a volte li allontana. Sì, soprattutto diciamo che ognuno si mette un po' nudo, nel senso che ci sono tanti momenti come quelli che hai fatto tu, soprattutto su barche piccoline, cose del genere, dove è difficile far finta di essere un altro, insomma, uno è così e spesso i genitori scoprono i figli scoprono i genitori una luce nuova, a volte capita anche quello, no? E questo è molto apprezzato perché penso che sia voglia di tutti scoprirsi come si è e stare in relazione per come si è senza finzioni. 349-238-6666, se anche voi figli o padri avete fatto esperienze del genere, ce lo volete sintetizzare in qualche riga via SMS. Quindi la barca non solo come metafora ma anche come luogo concreto di esperienza, però so che appena ti ho detto parliamo di barca ti sono aperti mille file, vero? Beh, assolutamente, ma anche perché io poi ho abitato 10 anni a Venezia, che è una città che ha un rapporto con l'acqua molto privilegiato. E no, trovavo particolarmente interessante la cosa che hai detto tu in apertura, no? Questo fatto che la vita in barca di fatto rappresenta un confronto che si svolge in pochi metri quadrati, in 6 metri quadrati, 8 metri quadrati, e quindi è lì, ci devi essere per forza, non puoi scappare, non ci sono i tablet, i cellulari, le cose, sei concentrato su quello che c'è lì, e questo dal punto di vista della relazione secondo me è una rilevanza fondamentale, insomma. Ma ci si deve dimenticare che si è padri e figli secondo te quando si è su quella barca? Cioè, perché sulla barca anche capita di arrabbiarsi, capita che ci sia anche l'emergenza tra virgolette, cioè bisogna prendere decisioni che non c'è tanto tempo a volte per dire grazie, scusa, chiedere per piacere. Ma diciamo che è molto coraggiosa la scelta di fare delle vacanze di questo tipo insieme, no? Di fare questa esperienza è coraggiosa perché, come dici tu, ci sono dei momenti dove uno si lascia andare in modo particolare perché non c'è tempo per mediare, e quindi non tutti sono disposti a reazioni di questo tipo, no? Quindi è molto coraggiosa, ci sono infatti genitori che scelgono di fare delle esperienze di questo tipo direttamente con i figli, quindi con altri, noi facciamo un sacco di cose in questo senso, anche raduni, roba del genere, ma ci sono altri genitori che invece preferiscono ad esempio chiederci due aule diverse, quindi i figli vanno con i ragazzi piccoli della loro età e i genitori vanno con gli adulti, no? Anche se magari convivono in uno stesso contesto, no? Però preferiscono fare strade diverse. Questa è proprio una scelta che abbiamo visto molto libera, cioè io credo dipenda molto dal rapporto che c'è all'origine, no? tra i ragazzi e i genitori. Ma anche perché, tra l'altro, volevo rivolgere una domanda in questo senso a Guido. Questa settimana sono uscito a cena con un mio amico skipper, fatalità, quindi gli ho rivolto qualche domanda sapendo il tema della trasmissione di oggi. Lui mi diceva che in realtà, a proposito di padri e figli in barca, la cosa che si considera poco è che sì, d'accordo, la barca come luogo, no, della complicità, il luogo del dialogo, eccetera, però di fatto la cosa più importante da tenere presente in barca è che c'è sempre un conducente, un comandante, un capitano. In barca devi fare quello che c'è da fare, quindi a un certo punto ti trovi a dover fare delle cose senza dibattito, devi conoscere bene il tuo ruolo, e volevo chiedere conferma di questa cosa, se è vero, insomma. Sì, sì, assolutamente è vero. Infatti quando ci sono i genitori e i figli a bordo capita spesso che i genitori si stupiscono di quanto sono bravi i figli, perché obbediscono tranquillamente allo skipper di turno, e parimenti i figli si stupiscono di come il genitore obbedisce allo skipper, no? Certo. E quindi diciamo i ruoli cambiano moltissimo, non c'è più un ruolo di tipico familiare, ma c'è un ruolo dove ognuno a bordo deve fare delle cose, anche perché ci sono delle questioni di sicurezza che sono inalienabili. Buttiamo per un attimo l'ancora, ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con i Padri Eterni. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta... Padri Eterni. Eccoci qua ancora in diretta dal Salone Nautico di Genova, puntata in diretta qui dagli studi di Radio 24, Taddea Federico, Matteo Bussola, con noi Guido Burattini di Utopia Scuola Vela. 40 anni, Guido, quest'anno avete festeggiato. 40 anni, 40 anni di scuola. In realtà festeggeremo a Napoli a Pasqua l'anno prossimo, per un mega raduno appunto aperto a tutti, piccoli e grandi. Tra l'altro, durante l'esperienza che ho fatto con voi, c'era un vostro istruttore, adesso diventato padre, che mi diceva che vi siete dati una regola, che comunque un istruttore non insegna al proprio figlio, ma è un altro figlio, è un altro istruttore che deve insegnare. Esatto, vero? Corretto, sì, sì. Questo è sconveniente insegnare ai propri figli. Ah sì, perché? È un problema di relazione, È quello che dicevo prima, che poi i ruoli si invertono e uno reagisce male, non conviene. È molto più saggio farsi insegnare da qualcuno altro. Pensa, no, è curiosa come, ma come cosa. È curiosa fino a un certo punto. Il fatto che i genitori e i maestri debbano rimanere figure distinte, secondo me, da un punto di vista pedagogico, non è sbagliato. C'è un altro elemento che ho percepito, questo come esperienza personale, di nuovo, mentre ero in barca durante il corso con i miei figli, che è l'elemento paura. Perché ci sono dei momenti dove comunque magari è pure di scuffiare, che comunque è piccola cosa, stai facendo un corso, però è sempre un qualcosa di imprevedibile, no? Che anche questo elemento paura, che lo vivi nello stesso istante con i tuoi figli, con livelli diversi. Mi sono accorto che a volte avevo più paura io di loro, e altre volte viceversa. Credo che sia un'altra di quelle scintille che veramente in una relazione padre-figli può portare qualcosa. Sì, questo aspetto, tra l'altro, è un aspetto universale. La nostra scuola ha sempre cercato di fare delle attività assolutamente inclusive anche dal punto di vista della relazione con la paura, che c'è sempre, perché, come dicevo prima, abbiamo a che fare con l'elemento vento, mare, cose del genere, e soprattutto noi non siamo delle persone acquatiche, e quindi quando siamo in mare capiamo anche istintivamente che siamo un po' fuori luogo, e questo ci porta ad avere dei timori, no? Su questo si lavora moltissimo. Come si accennava prima, è chiaro che questo mette un po' a nudo le persone, quindi i genitori e i figli si scoprono, in relazione con la paura, col mare, col vento, delle persone magari che non credevano di essere, oppure non pensavano di avere questo tipo di timore fino a quando non ci si trovano dentro. Questo è molto bello, perché insomma, ci si scopre anche un po' persone nuove. Ma questo mi pare un elemento significativo, no? Cioè la barca ti insegna a relazionarti con l'imprevedibilità. Esatto. E in un'epoca nella quale noi cerchiamo di prevedere tutto, di tenere i figli al riparo da tutto, il fatto di imparare una cosa che ti costringe a stare lì, a vivere nel presente, ti insegna concentrazione e disciplina, mi pare una cosa molto positiva. Sì, tra l'altro la barca appunto non lascia tempo per pensare granché, quindi ci sono dei momenti dove questo timore ti arriva involontariamente in un secondo, perché basta un cambio di vento improvviso o cose del genere, e ti trovi proprio a dover affrontare una cosa nuova, una cosa che non è inaspettata. Adesso affrontiamo insieme qualche secondo di una tempesta perfetta, poi con noi un grande ospite. Si dirata la nebbia, molli gli ormeggi, ti distacchi. Percorri il South Channel, superi Rocky Neck, Ten Pound Island, passi Niles Pond, dove patinavo da bambino. Dai fiato al corno da nebbia e mandi un saluto al figlio del guardiano del faro di Thatcher Island. Poi compaiono gli uccelli, i mugnaiacci, le anatre spose, i gabbiani reali. Il sole ti scalda, viri a nord, ti metti a 12 nodi. Sei a pieni giri. Gli uomini sono indaffarati, tu sei al timone. E hai il comando di una magnifica barca da spada. C'è qualcosa di meglio al mondo. George Clooney, che tornerà in questa puntata, e poi scopriremo come nella tempesta perfetta, chissà quante tempeste perfette e imperfette ha visto il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Giovanni Soldini. Ciao Giovanni. Pronto? L'ascoltatore. Pronto? Eccolo qua. Mi senti? Giovanni, ciao, sì, ti sentiamo. Benvenuto. Grazie, ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno Giovanni. Ciao Giovanni. Qui c'è un tuo grande amico. Sì, ciao. Assolutamente. Guido, so che avete fatto anche insomma tante cose insieme, no? Con Giovanni. Sì, non veliche. Non veliche. Okay. Giovanni, tu hai quattro figli, vero? Sì. Quando sei là in mezzo al mare c'è tempo, c'è spazio, c'è desiderio di pensare ai figli che sono a casa? Beh, sì, certamente, ma poi comunque per me la vela è anche un'occasione per stare con loro spesso, cioè spesso, quando posso, insomma. Perché vengono con te? Perché vengono con me, perché ci facciamo le vacanze in barca, perché comunque è un'esperienza che condividiamo. Sicuramente non hanno, come dire, non vogliono percorrere la mia strada, però sono tutti e quattro abituati ad andare in barca ed è una cosa che facciamo insieme spesso ed è molto bello. Una passione che tu sei riuscito a trasmettere facendo barca con loro, immagino. Sì, sì, io li ho sempre portati in vacanza, in barca, a fare viaggi, avventure di ogni tipo. Ciao Giovanni, sono Matteo. Avevo una curiosità. Siccome mi sono studiato un po' la tua biografia, insomma, non che ci fosse necessità di farlo, perché le tue imprese sono note, mi chiedevo, tu hai navigato a lungo sia in solitaria che in compagnia, la differenza fra le due possibilità, cioè c'è differenza tra condurre una barca da solo e condurla in team? Che cosa cambia fra le due cose? Ma cambia, direi che cambia molto il rapporto con la barca, no? Perché quando sei da solo in qualche modo c'è questa cosa molto forte che è la barca che ti porta un po', no? E quindi tu devi stare, sei molto attento verso quello che gli succede, impari a sentire la sua voce, a capire che cosa sta succedendo attraverso i suoi rumori, si crea un legame pazzesco, perché tutto quello che succede alla fine lo fai succedere tu e quindi tu sei un po' al suo servizio, e questa cosa dopo un po' di tempo diventa molto intima. Certo. Mentre in equipaggio non è così, perché in equipaggio tutta questa intimità in realtà è con gli altri membri dell'equipaggio, quindi certo, la barca comunque molto più controllo. Direi che appunto la grossa differenza è questa qua, cioè il fatto che quando sei da solo c'è inevitabilmente un rapporto speciale con la barca e quando sei con gli altri c'è inevitabilmente un rapporto speciale con le altre persone. Giovanni, ti riporto per un attimo ai tuoi figli invece, ma perché insomma la tua è un po' una situazione estrema, no? Però poi ci sono tanti altri padri che a un certo punto per lavoro devono dire, sapete, io vado via una settimana, vado via un mese, vado via due mesi, vado via a fare un'esperienza anche pericolosa. Come li hai preparati i tuoi figli alle tue avventure? Ma non li ho preparati. No, eh? No, nel senso che sono abituati da sempre che hanno un padre che viaggia molto, che va in barca vela, ed è una cosa che si vivono abbastanza, spero, tranquillamente. E ti seguono durante le tue imprese? Cioè ti seguono, rimangono sì, in contatto? Sì, sono i tuoi primi tifosi? Più o meno, sì. Chi più, chi meno, dipende, non lo so. Io sono là. Ed è mai capitato il contrario? Adesso io non so l'età dei figli di Giovanni. Cioè, uno dei tuoi figli, il maggiore, è mai andato in barca da solo? No, da solo no, però è andato in barca senza di me, sicuramente. Ah, il che già. Giovanni, ti stai preparando a qualche altra impresa o adesso sei a riposo? No, beh, no, io mi occupo di Maserati, del Trimarano, che comunque ha un programma molto intenso sia di sviluppo tecnologico che di navigazione, quindi adesso ci stiamo preparando per andare in Asia e questo inverno saremo in Asia, poi faremo un grande record tra Hong Kong e Londra e quindi... Quindi la parola riposo non esiste, insomma l'abbiamo tolta direi dal dizionario. Maserati.soldini.it è il sito per appunto tenersi aggiornati sulle prossime imprese. Grazie Giovanni per la tua testimonianza, buona domenica. Grazie a voi. Ciao. Beh, insomma è sempre è sempre emozionante. Poi tu Guido lo conosci meglio. Ho avuto Alice, la bimba piccola, aveva 7 anni, è venuta da noi a fare il corso di vela. È stato spettacolare perché era una bambina veramente piccolissima, cioè non arrivava all'altezza del tavolo e metteva tutti in riga, tutti. vedevi questo piccolissimo essere che pontificava, dava ordini a tutti, faceva dei nodi meravigliosi, erano tutti innamorati di lei perché era un personaggio straordinario. Insomma, Giovanni mi ha ricordato infatti le sue gite con i figli. Un anno eravamo nel campo de rive che tu conosci e si vede avvicinare questo trimarano rosso a tutta velocità, proprio diretto sul campo e sulle nostre barche. Quindi col gommone mi stacco e vado contro per dirgli cosa stai facendo, no? E a questo punto dal pozzetto centrale compaiono tutte le testoline dei figli con Giovanni che salutano. E via. Utopiascuolavela.eu, questo è il sito della Scuola Vela Utopia. Grazie a Guido Burattini. Guido, non ho imparato a fare i nodi, questo te lo devo confessare. Questo lo so. Però hai tempo anche a casa. I miei figli hanno tentato anche di insegnarmi, ma niente, c'è proprio un conflitto tra me. Ho dei nodi con i nodi, ecco, questa è la vera cosa. Grazie Guido per la tua testimonianza. Ciao e buon lavoro. Ciao a tutti. Noi ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con i Padri Eterni. Padri Eterni. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni. Qui si parla di padri, si parla ai padri. Oggi lo facciamo dal Salone Nautico di Genova e abbiamo messo la barca al centro. Parliamo proprio del rapporto tra padri e figli in barca. Beh, i prossimi ospiti credo che insomma sono l'emblema di questa puntata, Matteo? Il paradigma, oserei dire. Guido uscendo mi ha detto, loro sono leggenda, non bisogna aggiungere altro. Diamo il benvenuto a Vittorio e Nico Malingri. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Allora, adesso il vostro curriculum ve lo fate voi. Io ho subito una domanda però per Nico, che è il figlio, no? Allora, un papà normale, no? Dice, dai, vieni, facciamo un'esperienza, dai, vieni, facciamo un weekend insieme, dai, vieni, ti faccio provare una cosa. Il tuo papà arriva e ti dice, dai, facciamo un record. Ansia da prestazione subito o no? Beh, dipende, cioè, viene da un percorso iniziato anni prima, cioè io ho mio padre Vittorio Malingri che è stato primo italiano a fare la Van de Globe, cioè come se il tuo padre è un grande sportivo, ti insegna il suo sport e poi dopo la fine di un percorso ti propone di fare qualcosa di agonistico insieme, quindi è stato diciamo la fine di un percorso iniziato con la vela, con l'imparare ad andare a vela. Quindi la parola record diventa per te tipo una caramella, c'è cioè l'incentivo per... No, più che altro era l'obiettivo da raggiungere, no? Cioè imparare ad andare in barca è un discorso, ma riuscire a poter competere poi è un'opportunità, insomma, sperata, diciamo. Vittorio, quando è che oltre a navigatore, oltre che a recordman, oltre che avventuriero, hai capito che eri anche padre? E quindi c'era un qualcosa in più da portare su quella barca? No ragazzi, allora io paradigma dei padri eterni non è tanto questa storia qua sulla barca, io sono un marinaio, ho 4 figli da 3 signore diverse, per cui diciamo ho anche uno storico, un'esperienza sulla gestione di questa, di questa situazione, questa ciurma di cui adesso si sorride, ma come voi sapete spesso sono momenti pesi, no? Sono certo. Momenti anche insomma belli forti. Ed è un motivo di grande vicinanza, nonostante io abbia una vita di grande lontananza dai miei figli, proprio nel rapporto che abbiamo. Poi con Nico e Lele, suo fratello, che è un paio d'anni più di lui, non siamo così lontani di età, no? Abbiamo gli stessi amici, usciamo insieme, cioè si è riusciti a costruirci un rapporto che comunque è sempre genitoriale, ma anche di amicizia. Noi veniamo da una famiglia che in Italia, io l'ho vissuto su di me questa cosa perché... A quella volta mio padre mi portò, noi siamo una generazione, lui è il terzo, il quarto in mare di noi, insomma, negli anni. E niente, Nico, l'unica cosa che volevo aggiungere è che è stato scelto come atleta, non come figlio. Ah, Ok. Devi fare un record, devi farlo, non è che ti porti un amico così perché ti è simpatico e ti tiene compagnia, cioè il record è la prestazione assoluta, no? Cioè la regata, se partiamo tutti lo stesso giorno, come una corsa di 100 metri, e chi è più in forma arriva e tutti hanno le stesse condizioni. Il record è anche cercare strategicamente la giornata migliore, la meteorologia, un lavoro un po' più di testa, di ricerca, di messa a punto per massima prestazione, che è un record, quindi diciamo è la cosa più difficile che c'è da fare in ogni specialità qualsiasi. Quindi lui non vedi, puoi un altro, portarti vedi, uno vedi una cosa, non vedi, certo, che è figlio. Io come faccio a raggiungere un record? Io faccio il mio 50%, poi ci deve essere uno che fa quell'altro. No, io tra l'altro loro li ho ascoltati ieri pomeriggio in trasmissione, proprio in diretta Radio 24, siete andati, no, in un'altra trasmissione, e spiego perché il discorso del paradigma. Tra le cose che hanno detto ieri mi è piaciuta moltissimo questa, no, in cui spiegavano che loro quando vanno in catamarano in realtà non hanno nulla, no? Hanno questo pezzo di cosa che va nell'oceano. Questo pezzo di cosa al marinaio ti dà no, la testata. No, questo pezzo di cosa nel senso che non esiste il sottocoperta, non hanno la cucina, non hanno il bagno, sono sempre lì esposti a tutto quello che arriva. No? E tutto quello che arriva se lo prendono in faccia, vento, pioggia, siccità, tempeste, e quindi questo affrontare la vita a viso aperto, no? Mi pare una questione nodale poi anche, no? Nel rapporto padre figli. Nico, tu guardi tuo padre, vedi un atleta o è papà? Beh, tutte e due le cose, sai, il problema esatto che il rapporto genitore figlio, sai, c'è sempre un po' di competizione, diciamo, però quando c'hai tuo padre che è anche un maestro di un certo livello, cioè non puoi neanche, capito, prendertela più di tanto sul personale, cioè quando uno ti dice una roba purtroppo è quella, cioè non è che te la sta dicendo il papà, te la sta dicendo il tuo capitano, tu insomma ti devi non ti è devi vero niente guarda. mi ha massacrato sì, nell'ultimo record in 6 giorni un'ora seduti lì sul trespolo di questa specie di pattino a vela. Mi ha massacrato, si incazzava come una iena, lui voleva buttare su vele tutto spiano, giustamente, grande spirito competitivo, ed è anche perché lui ha fatto il 60% di questa operazione. Però diciamo che nei primi anni, io e Nico navighiamo insieme da tanto, perché veniamo da una decina d'anni di condividere una cabina nella nostra barca da scuola a vela, più cantieristica, insomma, situazioni per cui abbiamo vissuto veramente assieme. E la prima fase è come dice lui, ormai è arrivato a insomma si è imposto, diciamo. Vittorio, e se proponi di fare un record e questo record non viene battuto, ti senti un po' fallito come atleta, come no, papà? Assolutamente no, ragazzi, okay. Cioè lo sport è una cosa che si fa per divertirsi, eh. Poi sì, se ti diverti moltissimo e tutto va bene, ed è per quello che ti stai divertendo moltissimo, vedrai che viene fuori anche qualcosa di buono sotto il profilo agonistico. Sono pienamente d'accordo, cioè, spesso i risultati sono la conseguenza del fatto di divertirsi moltissimo, secondo me. Beh, è anche la spinta, no? Diciamo, certo. Cioè, se non ti diverti non hai la costanza per migliorarti, quindi diventa più difficile. VittorioMalingri.com, questo è il sito per conoscere la vostra storia, le vostre imprese. Prima, per gioco, durante la pubblicità ho chiesto, vi state preparando un altro record? Sì, abbiamo già la barca pronta, aspettiamo il vento. Sì, noi in questi giorni veniamo dalla preparazione della barca, lì sul Molo a Chiavari, siamo pronti alla, si chiama finestra meteo, alla prossima opportunità di avere un buon vento tra Portofino, la Giraglia, che è uno scoglio sulla punta del dito della Corsica, e Portofino. È un record italiano, abbiamo inventato noi, e poi abbiamo invitato degli amici l'anno scorso che ce l'hanno battuto e adesso noi cerchiamo di andare a riprenderci. Litigate anche ogni tanto? Di brutto, ok, perfetto. Okay. Sì, solo per ragioni tecniche, però attenzione, no, la barca è così piccola che motivi personali non c'è neanche lo spazio, diciamo, quindi si litiga sul mettiamo più vela, no, mettiamo di meno, rischiamo, non rischiamo. Ok, state qua con noi perché adesso c'è un altro ospite, anche lui padre, anche lui avventuriero, anche lui con dei bei record in tasca. Diamo il benvenuto ad Alex Bellini. Ciao Alex. Ciao Federico, buongiorno a tutti, buongiorno anche a Nico e Vittorio Malingri. Ciao Alex. Tra l'altro Alex, ciao. Sei in Islanda se non erro in questo istante, vero? Sì, esatto, vi sto parlando da una ventosa Islanda. Perché? Non esatto. Su 10 la trovi ventosa qua. La tua ultima impresa è stata proprio attraversare il più grande ghiacciaio d'Europa, che è lì in Islanda, e sei lì per celebrare presso il museo dell'esplorazione questo tuo risultato. Però Alex, quest'estate ha fatto una bellissima esperienza, nel senso che ha costruito una zattera, ha caricato le sue due figlie e la moglie, e hanno fatto come vacanza estiva questa navigazione avventurosa. È andata più o meno così, giusto Alex? Esattamente, sì, hai perfettamente descritto la situazione. Molto semplicemente ci siamo dati il lusso di poter viaggiare molto molto lentamente lungo questo fiume, il più grande fiume della Svezia, che è il Klaralden. È su una zattera autocostruita e per 6 giorni ci siamo fatti portare da queste acque molto molto calme, molto rilassanti, in quella che è stata poi un'avventura che ha riscosso molto successo tra il gruppo dei nostri amici, perché una cosa così semplice ha scatenato, tra virgolette, l'invidia di molti altri, no? E quindi speriamo di aver potuto motivare e spingere e spronare altre famiglie a fare altrettanto, perché credo che sia per me, personalmente, che ho la fortuna di viaggiare molto, di ricreare quel rapporto con le mie figlie che talvolta manca, perché ci facciamo prendere dalle sfide di tutti i giorni, no? Da questi ritmi frenetici, e poi passano il tempo, li vedi crescere, dici: caspita, ma hai già 8 anni. Allora è un po' come voler rallentare il momento e cercare di riprendersi quell'angolo tutto per noi. Mm-hmm. Infatti è stato il padre che ha preso questa decisione, non l'atleta, non l'avventuriero, vero? Sì, è stato assolutamente il padre. Sono dell'idea, spiegare il mio lavoro alle mie figlie è molto difficile, è molto più semplice farglielo invece vedere. Quindi vieni che ti faccio vedere che cosa faccio quando io sono via. Quindi è un po' quello, la mia idea è quella di poter educare le mie figlie attraverso il fare. Per l'amor di Dio, si educano anche attraverso l'imparare a scuola, però alcune lezioni non le puoi imparare nei banchi. Devi ferirti, devi sbucciarti le ginocchia, devi prendere freddo, devi avere fame, devi avere sonno. E allora è proprio un transfer l'avventura. E ho scoperto che poi anche i bambini di quell'età godono, proprio si divertono, si rendono conto di avere la natura per loro. Già la Svezia è molto avvantaggiata in questo, perché ha questa filosofia della la natura è un diritto di tutti. Cosa diversa invece dal resto d'Europa, in cui la natura è lì e noi possiamo solo vederla come in un grande quadro, perché per lo più sono terreni privati o coltivati e comunque non accessibili da tutti. Invece in Svezia la cosa straordinaria è che la natura ti chiama, proprio ti invita ad immergere. E quindi sì, abbiamo vissuto questo viaggio che ancora oggi, come sentite dalle mie parole, è molto vivo nei miei ricordi. No, mi pare molto bella questa cosa di Alex, cioè, perché in effetti, se ci riflettiamo, no, noi come padri o come genitori, soprattutto nel nostro paese, ce ne stiamo troppo spesso forse ormeggiati in porto, no? Abbiamo questa ossessione di tenere i figli al sicuro, di proteggerli, e invece usare i figli quasi come vele, no? Per buttarsi in mezzo, per spingersi avanti, per fare esperienze insieme con loro, mi pare una cosa molto bella, che accomuna sia Alex, peraltro, che i nostri ospiti qui di fronte, no? Però se le tue figlie arrivano e ti chiedono: papà, mi costruisci una zattera che andiamo su un fiume, tu lo sai fare? Io no, e mi dimetto da padre in quel momento. No, io nello specifico mi limiterei a far leggere loro a Huckleberry Finn. Ok, grazie. Sapete, Alex, questa cosa bella che ho trovato. Posso dire un'altra cosa, Federico? Certo. Che forse quando parliamo di straordinario poi ci dimentichiamo che abbiamo anche la possibilità di meravigliarci dell'ordinario. Una cosa bellissima, e sono sicuro che tutti quanti saremo d'accordo, chi ha figli ora, è che i bambini guardano tutto dagli occhi ingenui dei bambini, quindi tutta una meraviglia. Papà, guarda che bel albero! O piuttosto: papà, guarda che colori! Ecco, crescendo e diventando esperti del nostro mestiere, navigando per mari, per monti, avendo a che fare con cose meravigliose della natura, ci dimentichiamo però della magia delle cose semplici. È una delle tante cose che ringrazio la vita di avermi offerto, la possibilità di vedere attraverso le mie figlie il mondo nella sua semplicità e avere ancora il coraggio di meravigliarsi. Ecco, volevo chiudere con questa nota un po' alta di filosofia, per chiudere l'intervento. Che condividiamo. Grazie Alex per essere stato con noi. Salutaci tutti lì al Museo dell'Esplorazione, it.alexbelini.com. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua in diretta dal Salone Nautico di Genova. Padri Eterni. Eccoci qua ancora con Padri Eterni, con noi Vittorio e Nico Malingri. Nico, ti è mai venuto da dire basta barca, papà? Basta. Dipende, sì, all'inizio ci ho messo un po' ad appassionarmi, diciamo, siccome il papà non mi ha mai spinto, non mi ha mai forzato, vieni, facciamo, disfiamo. All'inizio non ero così passionale, diciamo, la roba è venuta da sola dopo un po'. Mm-hmm. Basta barca, sai, abbiamo fatto tantissima scuola vela, siamo andati mesi e mesi in barca, dopo un po', certo, se navighi tantissimo, a un certo punto ti viene anche voglia un attimo di fermarti, giustamente. Vittorio, come si trasmette una passione? Ma non perché è un crucio dei padri, no? Sì, no, bravo, hai fatto ora, è il punto cruciale. Io vedo nella nautica, poi probabilmente succede anche in altre cose, persone che attrezzano appunto come Alex tutta una situazione e poi non ci vuole venire nessuno, no? È pieno di annunci di cerco amici per fare uscite perché la famiglia gliene frega niente. Allora, ti spiego come mi hanno fregato me. A me a 16 anni a un certo momento mi hanno detto andiamo a fare un giro del mondo di 2 anni. Famiglia, io ho appena scoperto la ragazzina e il motore e ho detto ma come adesso devo stare con i vecchi chiuso dentro un ambiente piccolo per 2 anni intorno al mondo, non sono ancora tornato, cioè sostanzialmente ho cominciato da piccoli, ci facevano portare un amico a testa, per cui con l'amico tu devi far vedere che sei capace, cosa che invece quando sei da solo ti chiedono vieni Vittorio tiriamo sull'ancora, l'ancora, cioè fallo te, no, proprio sti boschi, fai finta di aver sentito tutte le cose che fanno i ragazzi, i bambini, no? Scusa, se c'hai l'amico, eh no, cioè lì devi far vedere che tu sei capace e sì, pian piano ti piace sta cosa. Vedi, diventa così, una ricetta quasi istintiva. Adesso un'altra storia, stiamo parlando di padre e figli, ma c'è anche chi sceglie di partire con tutta la famiglia. Ciao Fabio. Ciao a tutti, ciao Matteo, ciao Federico, ciao Vittorio, ciao a tutti, ciao Nico, tutti quanti. Ciao, ciao, Fabio. Ciao Fabio Portesan, 2 figli, Valerio e Leilani. Leilani, sì. Leilani, scusami, è hawaiano. È pronta questa barca? No, ancora no. Ci siamo resi conto uscendo dal porto che praticamente c'erano dei lavori ancora da fare perché ci ha lasciato il frigo, ci ha lasciato il salpancor, allora abbiamo deciso di riparare a Marina del Levante, non sta sufficiente il temporale che c'è qua sopra, io sono in barca chiuso, e per fare questi lavori appunto, e così ne approfittiamo anche per tirare fuori un po' di cose che non ci servono, ecco. Quello che ha detto prima Vittorio mi fa ben sperare se l'hanno portato via 16 anni per il giro del mondo. Perché quella diventa la vostra casa, cioè voi traslocate, tu porti, sì. Cioè vi trasferite a vivere in barca. Sì, praticamente noi abbiamo deciso, noi vabbè, abbiamo già una barchetta di famiglia, 9 metri sul Lago Maggiore, sai, qualche esperienza, un paio di giorni fuori, 2 o 3 giorni in cuccetta, i bambini contenti, insomma abbiamo visto che bene o male è una cosa che può piacere a tutti. Valerio ha 10 anni settimana prossima, Leilani ha 3 anni e mezzo, e allora abbiamo deciso di goderci i figli. Abbiamo deciso, sai, con la visione romantica del poi, abbiamo detto facciamo così adesso che abbiamo la possibilità, perché sennò poi non lo facciamo più. Io ho 38 anni, Marina, che è la mia fidanzata, la chiamo io, ha okay. 30 anni. Abbiamo detto facciamolo adesso, perché tutte le persone con cui abbiamo parlato hanno detto anche noi avremmo voluto farlo. E allora proviamo, cominci con l'idea romantica delle vele al vento, una cosa bellissima, e poi ti rendi conto che la barca è impegno totale, dedizione, e che devi essere tutto, soprattutto per la sicurezza dei bambini. Cioè devi essere Fabio, elettricista, idraulico, tutto. Dimmi tutto. Fabio, una domanda, ma in questo senso quindi la preparazione del viaggio, la preparazione, sì, della barca è già barca? Cioè i bambini si divertono comunque, sono coinvolti anche in questa fase, o a loro piace solo muoversi? A loro piace vedere quello che c'è da fare in barca, perché come diceva prima forse Alex, vedere la barca con gli occhi dei bambini è per loro è un'avventura assoluta, quindi anche andare fuori, prendere, andare magari a pescare, tornare, far vedere il granchio, la bambina che si organizza la sua cameretta come vuole lei, è già una cosa eccezionale per loro. Ecco. Fabio, poi, quanto starete via? Non lo sappiamo, non lo so, io devo dirti la verità, cominci, io leggo tanto, perché io sono un po' il, diciamo, poi sono quello che mette le mani dentro alle pompe di sentina, tutte queste cose qua, però sono quello che legge molto, è molto creativo, è molto fantasioso, invece mia moglie è molto più pratica di me, no? E quindi abbiamo cominciato a dire allora facciamo un budget, vediamo quanto riusciamo a stare in giro con questa con questi soldi qui, vediamo cosa riusciamo a fare sulla barca, metterle olio, col solare, insomma metterla completamente autosufficiente, perché noi vogliamo insegnare anche ai bambini la vera ecologia, cioè quello consumare il meno possibile, comunque consumare il giusto, e la barca insegna proprio questo. E poi diciamo, io leggo sempre di gente che va via e dice sto via un anno, sto via un anno e mezzo, e poi, come diceva Malingeri, non tornano più. Fabio, senti, Fabio, sì. Ho una curiosità, ma è sì. vero che tuo figlio Valerio frequenterà la quinta elementare della barca? Sì, assolutamente. Infatti anche per lui è una cosa assolutamente bellissima. Allora, diciamo che quando l'abbiamo detto a scuola... allora, partendo dall'inizio, praticamente, allora è successo così. Noi volevamo aspettare che finisse la quinta elementare per poi partire. Ci si è presentata l'occasione adesso e abbiamo detto vabbè, dai, perché no, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, riassumiamo in estrema sintesi i tempi e andiamo. E Valerio, quando l'abbiamo detto a scuola alle maestre, sono state contentissime, perché comunque, a dispetto di quello che si dice, l'istruzione, i bacchettoni e tutto quanto, le maestre sono state contentissime, perché hanno detto gli date un'opportunità che pochi bambini possono dire di fare geografia fare. Sicuramente. Vabbè, ma guarda, noi abbiamo già un piano preciso, perché poi Marina diventerà preside, insegnante, direttrice, bidella e tutto quanto della quinta elementare. Allora, diciamo che siamo stati coadiuvati anche dalle maestre che ci hanno detto guardate, la quinta elementare è comunque una scuola di ripasso, quindi vi diamo i libri, vi diamo tutto quanto e poi faremo, diciamo, non è proprio un esame, è un colloquio che il bambino sosterrà per avere la quinta, per avere la licenza. Diciamo. Insomma dai, siamo predisposti anche per lo studio, però Fabio, insomma, facci sapere quando parti, perché vogliamo comunque accompagnarvi da padre a padre in questa impresa. Ok? Si può vedere tranquillamente. Grazie Matteo. Grazie ciao. Fabio. Ciao a tutti, ciao. Bellissima esperienza quella che andranno a vivere. Chiudo con un'ultima domanda, Vittorio. Vittorio, la parola in coscienza ci sta? Eh no, cioè bisogna, come diceva Fabio, qui bisogna organizzarsi bene, bisogna sapere tutto, c'è la famiglia sulla zattera. Per noi non è solo con la famiglia, anche con gli allievi, anche con nella competizione, con gli altri sportivi, cioè tutte le vite avventurose, il deserto, la montagna, il mare predispongono una forma mentis che è sulla sicurezza, perché non sei nel tuo ambiente naturale. Insomma, quello è importante. Organizzarsi bene con gadgets e procedure. No, tra l'altro è interessante questo discorso sulla sicurezza, perché poi nella storia dell'uomo invece la navigazione ha rappresentato anche sempre, no, una modalità per cercare di migliorare la propria vita, spostandosi, certo, alla ricerca anche di... Ed è interessante notare come una volta partissero i padri, lasciando a casa i figli per i quali, no, cercavano di procurare. Adesso molto spesso invece partono i figli, lasciando i padri nel loro paese per cercare. Quindi questo cambio di paradigma è... E poi ci sono i Malingre dove partono padri e figli insieme quindi... che è meglio. Grazie davvero per essere stati con noi, bocca al lupo per le vostre esperienze. Un grazie a tutta la squadra di Radio 24, Elena Ligios, Giorgio De Luca, Alessio, Andrea Roccabella, la parte tecnica. Grazie a Matteo Bustola. Matteo, il momento della lettera, per chi l'hai fatta? Ah, questa volta scriviamo una lettera aperta a George Clooney. Attenzione, l'appuntamento con i Padri Eterni è la prossima domenica, come sempre alle 11, però fatevi vivi nella nostra pagina Facebook, alla nostra mail durante la settimana, mandateci idee, spunti, critiche, suggerimenti. Noi siamo qua. Questa invece è la lettera a George Clooney. Lettera aperta a George Clooney. Caro George, fratello, dopo anni in cui sei stato per me e per il 90% della popolazione maschile mondiale una pietra di paragone inarrivabile, dopo che sei invecchiato tenendoti tutti i capelli in testa e senza un filo di pancetta, comprando ville sui laghi, accompagnandoti a donne bellissime e infilando un successo dietro l'altro, ecco, sei finalmente tornato un comune mortale. Ti sono nati due gemelli e hai dichiarato di essere così stanco per le notti insonni da scoppiare a piangere 4 volte al giorno. Eppure ti sei preparato, ascoltando i consigli dei tuoi amici già genitori, ma niente da fare, non eri pronto. Non potevi esserlo, non lo siamo mai, perché, parafrasando il tuo film più bello, la nascita di un figlio per un uomo è l'unica vera tempesta perfetta. Immagina la sottile soddisfazione che questa notizia ha trasmesso a tutti quei padri che sono stanchi morti quanto te e non possono nemmeno vantare una copertina su Vanity Fair Sarebbe stato il trionfo dell'invidia se dopo la loro nascita non avessi mostrato le foto dei tuoi bimbi ai giornalisti e non avessi dichiarato che, a poche ore dalla vostra prima separazione, ti sentivi disperato. È stato quello il momento in cui ho capito che tu sarai sempre più ricco e sempre più bello e avrai sempre più successo e soldi di me, ma che d'ora in avanti tu ed io saremo anche sempre uguali.